Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 9 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo da alcune buone notizie, e la buona notizia si chiama superindice dell'OCSE, voi direte però. Beh, è un indice che misura l'andamento del ciclo economico in maniera abbastanza attendibile e per la prima volta torna a crescere. E soprattutto cresce ancora di più la parte di questo indice previsionale che riguarda l'Italia, per quello che ha a che fare con l'OCSE, il superindice dell'OCSE. Sono usciti invece altri dati sul mondo del consumo e del commercio da un forum di Confesercenti, e lì le notizie sono meno belle, nel senso che secondo i commercianti solo nel 2013 si tornerà ai livelli di consumo del 2007. Ne parleremo delle due cose in apertura, anche perché un'altra buona notizia riguarda la produzione industriale. Per carità, lo abbiamo detto più volte, se tu da 100 fai meno 40% e scendi a 60, è chiaro che se fai anche più 10 un anno vai a 66 e ce ne vuoi a tornare a 100, però sempre meglio vedere il segno più. E per la prima volta la produzione industriale cresce a luglio più 1% rispetto al dato di giugno, per cui la parte congiunturale. Se si guarda invece l'anno su anno è meno 17%, però anche qui guardiamo come si muove la temperatura ora su ora, quindi mese su mese, non rispetto a quando si stava senza febbre. Ancora per quello che riguarda gli autoveicoli è il dato più pesante, meno 20% nella produzione industriale, ne parleremo tra un attimo. I mercati come vanno? Bene, complessivamente un punto percentuale di guadagno su tutte le borse europee, Parigi ma anche Londra, Francoforte un po' meno, più 0,7, Milano più 1%. A Piazza Affari perde parecchio Prismian, oggi il 3,5%, ma guadagna tanto Fiat, più 4,8% a 8,80 €, bene anche Bulgari, più 3,90, Pirelli più 3,30, Campari più 2,80 e ancora Unipol più 2,6, Intesa più 2,3%, Atlantia più 2,3, Finmeccanica più 2,1, Autogrill più 1,90 e Unicredit più 1,6%. Parmalat, Generali e Alleanza guadagnano lo 0,90%, ma la notizia di oggi ancora una volta è l'euro per quello che riguarda i mercati, perché ha superato quota 1,46 e inizia, vedremo poi dove si fermerà, a andare vicino a quota 1,47, siamo 1,46,2 in questo momento, ma insomma molto molto debole il dollaro. Ultima cifra, come sempre, quella per i vostri sms, 349-238-6666, e adesso le notizie in breve. Oltre all'euro c'è anche il petrolio, che ha aperto sotto i $72 al barile, mentre è sceso sotto il livello record l'oro. Il livello record che ha toccato nei giorni scorsi, sopra i $1,000 all'oncia, siamo scesi a $998 all'oncia. E tra l'altro vi segnalo che in occasione della Fiera di Vicenza, dedicata alla Fiera Orafa di Vicenza, che è la più importante che c'è a livello nazionale, e probabilmente la prossima settimana ce ne occuperemo anche noi, l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, Radio Core, ha realizzato una newsletter e un insieme di interviste a alcuni imprenditori e operatori del settore sullo stato di salute, per capire rischi e potenzialità del settore. Alcuni dati che arrivano dall'estero: il Giappone, aprile-giugno il PIL a ribasso, ma i dati sono meno brillanti, o meglio, un PIL che ha un leggero segno più, ma i dati sono meno brillanti rispetto alle prime attese, quando si parlava di un più 3,7 a livello annuale siamo appena un più 0,6%. Invece in Cina le notizie sono buone, si sta consolidando la produzione industriale cinese, 12% in più anno su anno nel mese di agosto, che è il più forte da un anno a questa parte. E quindi la Cina conferma di essere uscita ampiamente da una crisi, forse non c'è mai realmente entrata. Le banche, il commissario europeo Neil Kroes è tornata a chiedere alle banche di prestare i soldi, ha detto Neil Kroes, se non servono a prestare i soldi alle persone e alle imprese, a cosa servono le banche? E ha anche aggiunto che quanto ai bonus dei manager, secondo il commissario europeo alla concorrenza, appunto, non serve aspettare il G20 di Pittsburgh, si potrebbe arrivare a una decisione a livello europeo prima dell'appuntamento. Ancora sul superindice dell'OCSE, volete sapere i dati? Sì, adesso arriviamo a queste due notizie positive. L'OCSE ha diffuso oggi il superindice, lo strumento che serve per misurare la temperatura dell'economia mondiale, questo è l'obiettivo. Beh, tutti i paesi che fanno parte dell'OCSE hanno registrato un aumento di 1,5 punti. E tra i paesi che hanno registrato un incremento maggiore figura l'Italia, che ha recuperato 2,7 punti su base mensile e 8 punti rispetto a luglio 2008, tant'è che l'OCSE prevede per l'Italia una possibile espansione dell'economia già nei prossimi mesi. Ecco perché forse il dato sul PIL non farà un meno 6 ma farà un meno 5, sempre brutta roba è. Ma meglio che niente. Nel frattempo la produzione industriale a luglio è cresciuta, dicevo, per la prima volta più 1% rispetto a giugno. Chiedete il gallo, vabbè, gallo sia. Tra l'altro un gallo o un pollaio, come lo chiamano alcuni di voi, giustificato anche dal fatto che anche la crisi del mercato immobiliare europeo si starebbe avvicinandosi alla fine. Secondo l'European Outlook di scenari immobiliari, presto oggi nei 5 paesi più importanti d'Europa, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, il fatturato dei vari mercati immobiliari chiuderà il 2009 con un meno 13%, però dovrebbe essere dal 2010 in poi un mercato di nuovo in crescita. C'è però un dato meno bello, anche perché non vogliamo così spandere ottimismo inutile, un dato meno bello che riguarda le previsioni diffuse oggi dalla Confesercenti nel corso di un forum economico a Perugia, realizzate assieme al RIF. E allora siamo in collegamento con Marco Venturi, presidente della Confesercenti. Buonasera Venturi. Buonasera. Allora, ci dica, dal rapporto che voi avete presentato oggi, quando è che i consumatori italiani torneranno ad avere una spesa, non dico magari come prodotto, ma complessivamente simile ai livelli del 2007? Ma guardi, noi secondo il nostro rapporto, intanto il prodotto interno lordo diventerà positivo dal prossimo anno, anche se parliamo di uno 0,4 e parliamo di un 1,6 nel 2011, quindi una crescita che sicuramente è frenata. Vediamo che c'è dietro un'economia che non funziona, questo è il problema vero, insomma non è tanto solo questione di fiducia, ma pensiamo a un paese con un debito pubblico molto elevato e che quindi dobbiamo affrontare quelli che sono i problemi di fondo prima di trovare un respiro di crescita positivo. Eh beh, insomma, 2013 però non è proprio dietro l'angolo su questo, eh? Certo, non è dietro l'angolo, ma dobbiamo sapere che un paese come il nostro, che ha carenze infrastrutturali, un debito pubblico enorme, cioè non è che i problemi si risolvono così, già spendiamo un sacco di soldi solo per interessi sul debito, e non, quindi questo ci impedisce in qualche modo anche di investire. E quindi vabbè, Presidente Venturi, se lo sta tirando però il nostro gufo, eh? Vabbè, il gufo faccia quello che vuole. No, nel senso che io ho cercato di evitarlo, però a parte gli scherzi, cerchiamo anche di sorridere, ma purtroppo c'è poco da sorridere. Se i consumi, ci chiedono gli ascoltatori una cosa che a mio avviso è interessante, però voi dite consumi, i consumi torneranno al livello del 2007 nel 2013, però non è detto che siano da un punto di vista merceologico gli stessi consumi. Cioè, quello che noi sentiamo dire da più parti è che questa crisi poi cambierà anche in maniera sostanziale il modo in cui faremo la spesa, che l'America non importerà più gli stessi o necessariamente tutti gli stessi beni dall'Italia e dall'Europa, che c'è un cambiamento anche nel consumatore. A questo ci avete pensato? Ma certo, questo è inevitabile. È chiaro che il consumatore si adatta in una situazione di crisi a consumare diversamente di meno, e non è detto che riprende tutte le abitudini precedenti, anche perché magari si è abituata anche al risparmio. Quindi bisogna, da questo punto di vista, essere molto cauti e attenti, perché gli sviluppi futuri possono essere diversi da quelli che noi immaginiamo, e quindi i consumatori ovviamente si comporteranno indipendentemente dai nostri ragionamenti e dai nostri calcoli. Abbassare i prezzi, come chiedono alcuni al 349-238-6666, potrebbe essere una strategia per i commercianti? Magari, ovviamente bisogna... Magari lo diciamo noi, però. No, lo dico anche io, perché se si riducono i costi delle imprese certamente è possibile ridurre anche i prezzi, ma noi ci troviamo in una situazione di difficoltà. Infatti abbiamo fatto delle proposte che riguardano anche i consumatori, come quello dell'alleggerimento delle tredicesime anche negli anni successivi. Quindi alleggerimento, immagino, della pressione fiscale sulle tredicesime, non della tredicesima. Certo, più complessivamente, come per le imprese, quello degli studi di settore. Insomma, bisogna che ci siano una serie di interventi. Penso all'altra proposta che noi abbiamo avanzato all'IVA sul settore del turismo. Abbiamo i nostri concorrenti come Spagna e Francia che hanno un'IVA più bassa della nostra, è chiaro che questo diventa un elemento di difficoltà di concorrenza. Il turismo è uno di quei settori che porta valuta, che porta occupazione nel nostro paese, quindi non può essere sottovalutata. Sì, poi basta poi quando i turisti stranieri arrivano in Italia non si faccia come col passetto e altri casi che abbiamo documentato in queste settimane, cioè non gli si dia una mazzata sui conti. Comunque quello è un altro... Vabbè, ma questo non possiamo generalizzare. No, non voglio. Io sono d'accordo, se vogliamo andare a mazzolare chi ha aumentato i prezzi oltre misura, io leverai le licenze. Vengo con voi. Leverai le licenze, perfetto. Andiamo avanti con lei, vicepresidente Venturi. Come Confesercenti avete chiesto poi oggi al governo alcune misure... innanzitutto un tavolo di confronto con le associazioni delle piccole e medie imprese per arrivare a un patto triennale su che cosa, molto concretamente, perché io quando sento parlare di tavoli di confronto ho paura che poi ci siano tanti bei modi per incontrarsi, parlare, ma poi non risolvere. Che cosa volete? Ma noi veramente i tavoli con il governo ce l'abbiamo già, discutiamo, però vogliamo discutere anche di questioni che possono immediatamente innescare un circuito positivo, soprattutto per le piccole e medie imprese. Per quello che riguarda il fisco, noi per esempio poniamo un problema rispetto agli studi di settore, cioè che ci sia un alleggerimento del peso, come è stato fatto, perché è stato fatto per il 2009 e anche per il 2010, proprio perché il 2010 è un anno ancora difficile. Poi chiediamo, per esempio, come l'accennavo prima, che si intervenga sull'IVA sul turismo. Non possiamo avere un'IVA più alta della Francia o della Spagna, che sono nostri diretti concorrenti. Chiediamo la detassazione delle tredicesime, quindi dei lavoratori dipendenti, perché questo può agevolare i lavoratori stessi e nello stesso tempo, diciamo, gli acquisti, e quindi mettere in moto complessivamente. Cioè volete una riduzione della pressione fiscale adesso in maniera generale, poi i vari strumenti si vedranno, ma che il governo tagli le tasse, come dicono alcuni. Sì, ma era una promessa della campagna, diciamo, anche sui consumatori, non solo sulle piccole e medie imprese. Era una promessa della campagna elettorale. Devo dire, sapete che questo programma non è che difenda o attacchi il governo, dice quello che legge. Devo dire che la riduzione delle tasse, che sicuramente non è avvenuta, si scontra anche con una crisi finanziaria che oggettivamente nessuno immaginava tale a inizio del 2008, questo va detto. Dopodiché questo siamo d'accordo. I vari strumenti si possono siamo d'accordo, ma bisogna razionalizzare la spesa pubblica. Mm-hmm. Ci sono moltissimi sprechi, noi abbiamo presentato numerosi rapporti, dice ognuno da 100 casi di spreco nella pubblica amministrazione, e spazi di intervento ce ne sono, noi siamo pronti a collaborare con il governo se si intende recuperare risorse per metterle in produzione, quindi utilizzarle in maniera proficua. Anche la lotta all'evasione? Anche la lotta all'evasione, come no? Mi pare che sugli studi di settore c'è una collaborazione piena, quindi da parte nostra non ci sono pregiudizi, però vogliamo che poi le risorse vengano utilizzate nel modo giusto per mettere in moto appunto l'economia. Sì, devo dire che alcuni scrivono, beh, se le banche, come sembra, perché ho visto Intesa San Paolo e altre banche, probabilmente non utilizzeranno i cosiddetti tramonti bond, cioè quei miliardi di euro che il governo ha messo a disposizione alle banche perché potessero avere liquidità da girare poi le piccole e medie imprese e non chiudere il credito, beh, il governo potrebbe usarli per, direttamente per i mondi produttivi, penso al commercio, ma non solo, anche al lavoro dipendente. No, cioè, certo, artigianato. Insomma, perché quello che vediamo è che in realtà industria. Chi veniva dato per malato, malato grave, è quello che se la passa meglio in questo momento, cioè il mondo bancario ha avuto trimestrali buone, i titoli vanno bene in borsa, hanno recuperato una media dell'80% da marzo, da quando c'è stato il calo più il punto più basso. Sono positivi di un 20-30% da inizio anno, e invece chi prima non sembrava essere così malato, cioè il mondo produttivo, è abbastanza in ginocchio. Grazie Presidente della Confesercenti, quindi in bocca al lupo anche agli associati, Marco Venturi. Arrivederci. Vedo altre domande che arrivano al 349-238-6666. L'evasione, l'abbiamo chiesto, ha detto siete favorevole alla lotta all'evasione, poi di più non possiamo andare. È chiaro che assieme agli studi di settore che devono tener conto di maggiore difficoltà tra gli artigiani, tra i commercianti, tra i piccoli imprenditori, piccolissimi imprenditori, ci vorrebbe in parallelo una forte lotta all'evasione fiscale, solo così vengono giustificati, sarebbero giustificati anche studi di settore che rivedessero al ribasso i fatturati attesi. Avete ragione nel dire che per alcune categorie professionali, se non rifare la lista ogni volta non serve, però le dichiarazioni dei redditi sono scandalose, inaccettabili e irrealistiche. Però continuiamo sul tema del mondo che produce e del mondo, diciamo, che fa finanza, non perché la finanza non produca. C'è una cosa che oggettivamente ci lascia perplessi: le categorie produttive, imprenditori, manifatturieri, commercianti, servizi, artigiani, agricoltori, lamentano appunto difficoltà, fatturati in calo, problemi occupazionali, banche che non danno i soldi. Eppure i soldi intesi come liquidità ce ne sono tantissimi, perché ogni volta che un grande gruppo in questi giorni ha voluto chiedere un prestito sul mercato attraverso un'obbligazione, lo abbiamo visto nel caso di Fiat, di Eni, di Generali, il prossimo caso sarà Intesa San Paolo e ieri Enel, ebbene ogni volta ha trovato tanti offerenti, tanta liquidità in giro. Infatti le domande sono state 6, 4, 5, 6, 7 volte superiori all'offerta. È un po' strana questa situazione, molti soldi liquidi che non sanno dove andare e molti operatori del mondo economico che lamentano di non avere abbastanza liquidità, di dover rientrare con le banche. Dopo Eni, Fiat, Generali e Intesa San Paolo, ieri è stata la volta del collocamento dell'emissione Enel, un'operazione lampo, richieste 4 volte anche in questo caso superiori all'offerta e gli ordini che hanno superato, cioè le richieste hanno superato i 28 miliardi di euro. Enel ha chiesto sul mercato, invece chiedeva 6 miliardi e mezzo di euro con due obbligazioni in euro e sterline, durata media 16 anni e i rendimenti che andavano, adesso ne parleremo ampiamente, sopra quello che rendono i bot. Salutiamo innanzitutto è in collegamento con noi Luigi Ferraris, direttore finanziario di Enel. Buonasera. Buonasera a lei. Avete ieri lanciato e praticamente chiuso in un'ora un prestito sul mercato chiaramente istituzionale, vale complessivamente 6 miliardi e mezzo di euro. In realtà avete offerto obbligazioni da una parte in euro, 1 miliardo e mezzo e 2 miliardi e mezzo, con scadenza rispettivamente 2016 al 4% di rendimento e 2022 al 5%, e poi avete lanciato invece il restante in sterline, 850 milioni e 1 miliardo e 4, con un tasso superiore al 5,5%, al 5,6% in un caso e al 5,7% nell'altro. La notizia, che la cosa che ha fatto più impressione, è la rapidità con cui siete riusciti a collocare questa richiesta di prestito, cioè 6 miliardi e mezzo avete chiesto, quanto ci avete messo? Meno di un'ora, diciamo, in meno di un'ora abbiamo ricevuto adesioni e richieste dei nostri titoli per, come diceva giustamente lei, più di 28 miliardi di euro. Quindi praticamente un miliardo ogni 10 minuti siete riusciti a raccoglierlo sul mercato? Sostanzialmente sì, volendo fare questo tipo di media, sì. Quindi direi sicuramente è stato un risultato eccezionale che insomma ci fa piacere, perché conferma anche un po' la fiducia del mercato rispetto al percorso strategico che stiamo portando avanti. Incredibile anche perché avete avuto ordini complessivamente, cioè quando c'è un'asta, lo dico a chi ne ascolta, a chi sta scrivendo al 349-238-6666, quando c'è un'asta in cui un gruppo chiede un prestito, offre, chiede 6 miliardi e mezzo in questo caso, però le domande delle volte sono anche superiori all'offerta. A quanto è arrivata la domanda? Abbiamo superato di gran lunga i 28 miliardi di euro equivalenti, quindi sia tra euro e sterline convertite in euro, quindi è stato tra collocato e domanda un rapporto superiore a 1 a 4, quindi direi decisamente notevole, un successo. Ma sarebbe corretto dire che se voi aveste voluto raccogliere 28 miliardi di euro, cioè no, cifra folle, nel senso che vale quanto due manovre finanziarie italiane, comunque ieri avreste avuto chi vi prestava il denaro? Assolutamente sì, se avessimo voluto, questi 28 miliardi erano committed, quindi erano chi ha offerto si è impegnato, quindi offerto a fermo, e di conseguenza se noi avessimo deciso di tirare su 28 miliardi avremmo potuto farlo. Lei come se la spiega, visto che fa il direttore finanziario di uno dei più grandi gruppi italiani come Enel, che ci sia così tanta liquidità, cioè soldi che uno non sa dove mettere, e come trova un'offerta, partecipa appunto, compra le obbligazioni in giro? Intanto questa è un'offerta riservata al cosiddetto mercato istituzionale, quindi stiamo parlando di rivolta a investitori finanziari, quali fondi pensioni, banche stesse, fondi di investimento di lungo periodo. E la liquidità che oggi troviamo nel sistema credo che derivi dal fatto che le banche centrali in generale hanno immesso una grossa mole di liquidità a prezzi, a costi decisamente contenuti, se non in alcuni casi prossimi allo zero. Evidentemente in questo momento la liquidità non va tutta sul mercato del prestito, quindi non va a beneficio delle imprese a seguito anche dell'attuale crisi economica, e quindi esistono grosse masse di liquidità che vengono a questo punto collocate in investimenti obbligazionari corporate di lungo periodo. Allora, adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi continuiamo a parlarne, perché vorrei capire intanto questi rendimenti, intanto anche appunto perché non lo offrite a tutti noi, e poi se è vero, come dicono alcuni, che tutti i grandi gruppi adesso chiedono soldi sul mercato perché hanno paura che i tassi aumenteranno a breve. Sette 7.38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, arriviamo tra pochissimo al commento sulla borsa. Vorrei concludere però il ragionamento con chi ha gestito l'emissione di obbligazioni Enel, che appunto ieri è andata a ruba, meno di un'ora per collocare 6 miliardi e mezzo di euro con richieste di 28 miliardi, rendimenti chiaramente interessanti visto che bot rendono meno di zero e che i tassi sono all'1%, qua si viaggiava tra il 5 e il 5,5%, lo stiamo facendo con il direttore finanziario di Enel, che ha seguito operativamente tutto il collocamento, Luigi Ferraris. 6 miliardi e mezzo di euro a che vi servono? Investimenti? Cioè perché avete avuto bisogno di raccogliere 6 miliardi e mezzo? Intanto vorrei dire che questi 6 miliardi e mezzo non rappresentano nuovo debito per noi, ma rappresentano sostituzione di debito già esistente. Nella fattispecie abbiamo ricorso al mercato obbligazionario per sostituire debito bancario con debito obbligazionario per allungare le nostre scadenze. Quindi l'obiettivo principale di questa operazione era quello di poter allungare le scadenze medie del nostro debito, e nella fattispecie i 6 miliardi e mezzo di euro hanno una scadenza media che supera i 15 anni. Quindi sicuramente questo contribuisce a diluire nel tempo il profilo delle nostre scadenze di debito. Quindi non ci sono nuovi investimenti in programma con questi soldi, è un rifinanziamento, questo lo dico, lo fanno tanti gruppi, cioè il debito che uno ha scade, come immaginiamo anche per un privato in banca, se hai un prestito in banca poi il prestito ti scade, vai a rifinanziarlo nella parte che ancora non puoi restituire, no? Esattamente così, e tra l'altro lei sa che l'Enel ha un programma di riduzione del debito. Quindi la raccolta che abbiamo fatto attraverso i bond va semplicemente a allungare le scadenze, non va a modificare la consistenza del debito. Il piano di dismissione, la generazione di flussi di cassa operativi che andremo a conseguire, che stiamo conseguendo, invece andrà a riduzione del debito. Dottor Ferraris, perché non ce le offrite anche a noi queste obbligazioni? Perché hanno dei rendimenti, insomma, al 4% sulla cedola, parlo di quelle in euro, al 5% quella del 2022, siccome abbiamo raccontato anche ieri che ormai i bot valgono meno di zero. E insomma, non abbiamo... sarebbe interessante capire perché voi, ma ripeto, anche generali, Intesa San Paolo, vedremo sicuramente Fiat, tutti quelli che hanno emesso obbligazioni in questo momento l'hanno fatto solo per gli istituzionali, ma non per noi normali cittadini. Beh, intanto mi faccio dire, sono obbligazioni di lungo, se non lunghissimo periodo. Perché... ma noi contiamo di vivere a lungo. No, ma quello glielo auguro, e me lo auguro anch'io magari. Noi abbiamo emesso un'obbligazione a 31 anni, quindi sicuramente ci auguriamo io e lei magari tra 31 anni di essere qui a commentare la scadenza. In diretta, sì, con la dentiera, va bene. Però perché non lo fate anche per il retail? Ma lo faremo ragionevolmente entro la fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo. Quindi nell'ambito del programma di rifinanziamento, di allungamento delle scadenze, come dicevo prima, c'è stata questa obbligazione in euro sterline, queste emissioni in euro sterline, stiamo programmando di fare anche nei prossimi mesi, diciamo, anche la emissione in dollari, e dopodiché ci sarà anche la possibilità di emettere obbligazioni in euro a favore dei risparmiatori italiani. Vabbè, in bocca al lupo e grazie al direttore finanziario di Enel. Ah, un'ultima domanda che torna sempre quando parliamo di queste cose. È vero che state raccogliendo denaro sul mercato, voi e altri, adesso, pagando anche una differenza non male rispetto al costo del denaro, perché temete che magari fra un anno o due anni i tassi di interesse tornino a salire e quindi potrebbe essere meno conveniente andare a chiedere prestiti, chiedere denaro sul mercato, costando il denaro fra uno o due anni di più? Ma io credo che abbiamo semplicemente, come dire, raccolto, come credo altri gruppi stanno facendo, un'opportunità che si è aperta in questo periodo, che è rappresentata da una cospicua presenza di liquidità da un lato. Dall'altro lato, se andiamo a vedere in termini di spread che viene pagato sui tassi base, stiamo ragionando su 95-100 basis point, per esempio sui 7 anni, il che vuol dire che già il mercato sconta su un lungo periodo, sui 7 anni e oltre, un livello di tassi di interesse base superiore al 3%. Quindi è evidente che una situazione di tassi particolarmente bassi come in questo momento, una volta che l'economia ritorna in condizioni normali, dovrebbe poi modificarsi e quindi dovrebbe esserci un ragionevole incremento. Quindi la risposta è sì, cioè temete che più avanti i tassi saranno più alti? Sì, ma direi che più che un timore, diciamo che forse oggi sono anormalmente bassi. Ecco. Questo è poco ma sicuro. Grazie di nuovo e buon lavoro al direttore finanziario dell'Enel, Luigi Ferraris. Grazie a voi, buonasera. Eh sì, insomma, avete ragione a scrivere che evidentemente la liquidità c'è, i soldi ci sono, non per tutti evidentemente. Adesso parliamo di borsa e poi parleremo di Fiderm, visto che c'è raggiunto in studio il responsabile, e voce molto conosciuta alla D24, responsabile del settimanale che si occupa per il Sole 24 Ore proprio di finanza, risparmio gestito, investimenti, Marco Liera, buonasera. Buonasera a voi. Un brevissimo commento, poi passiamo ai mercati su questo. Hai sentito anche tu, Ferraris, l'Enel ieri ha avuto 5 volte l'offerta di quanto rispetto alla domanda di obbligazione, addirittura 28 miliardi di euro. Tanti soldi in giro che non sanno dove andare. Sì, questa è una domanda che viene dagli istituzionali che sono alla ricerca di emittenti sicuri e che sono anche disposti a impegnare questi capitali per lungo periodo, come abbiamo sentito. I risparmiatori, anche loro, si stanno muovendo in questa direzione, a quanto vediamo. Molti di questi risparmiatori comprano obbligazioni. Effettivamente negli ultimi mesi al MOT, al TLX ci sono state, sono affiorate diverse occasioni nel campo delle obbligazioni. Ricordo che c'erano obbligazioni bancarie nel novembre del 2008 che erano scese a 70, quindi valori assolutamente da saldo, con rendimenti impliciti che in qualche caso anche superavano il 10%, e si trattava di emittenti bancari, perché in quel momento c'era un gran panico. Ecco, chi in quei momenti ha fatto appello al proprio coraggio, al proprio sangue freddo, ha fatto degli ottimi affari. Devo dire che adesso i rendimenti sono più bassi, ma gli obbligazioni rimangono sempre un ottimo investimento per gli investitori prudenti che non vogliono investire in borsa. Ed essere investiti dalla borsa, potremmo dire. Allora, adesso il commento sul mercato. Di Fideuram parleremo, perché mi riallaccio a quanto tu dicevi, Marco Liera. Se da un lato, quando i soggetti grossi hanno bisogno di soldi, adesso trovano una marea di liquidità in giro, dall'altro è molto più difficile per chi fa il promotore finanziario rispetto a qualche anno fa andare a raccogliere i soldi dei risparmiatori, per tutto un insieme di motivi che non discuteremo qui oggi, se ne occupa spesso Deborah Rosciani con Savadanaio, ma che sono alla base di quello che poi racconteremo sulla vicenda Fideuram e Intesa San Paolo. A chi ci chiede invece al 349-238-6666 se continua il nostro viaggio con gli imprenditori che accettano la sfida, certo che continua. Abbiamo avuto due giorni fa Nero Alessandri di Tecnogym, avremo nella seconda ora del programma chi ha rilanciato il marchio Coin e OVS, ci racconterà consigli, trucchi e insomma lezioni per reggere la crisi. Allora, diciamo la borsa. Nel frattempo vedo che alcuni di voi scrivono anche dei 10 anni di Radio 24. Sì, 4 ottobre compiamo 10 anni, Marco Liera pure li compie, non 10, purtroppo per lui, ma uno dei primi ospiti di questo programma, di Salvadanaio, a dire il vero. Era alle 10 della mattina. Era allora alle 10 della mattina, come dimenticare quell'orario. Ero arrivato 5 minuti prima. Allora, no, la Marcord, aspettiamo ancora un po' per la Marcord, mentre il tecnico sta ridendo. Per favore, stiamo seri. La borsa, Fiat più 4,80%, Bulgari più 3,80%, Pirelli più 3,5%, Campari più 2,80%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Fiat ha sorpreso tutti oggi perché viaggia vicino ai 9 euro per azione. Sì, oggi Fiat è stata sotto i riflettori, si tratta in particolare di un report degli analisti del Credit Suisse che ha sostenuto il titolo. Gli esperti hanno alzato la raccomandazione su Fiat da underperform ad outperform, quindi un rialzo di 2 gradini, e hanno anche spostato decisamente al rialzo l'obiettivo di prezzo a 11 euro dai precedenti 6,5. Adesso Fiat ha chiuso in rialzo del 4,83% a 8,79 euro, quindi con un target a 11 euro secondo gli analisti ha ancora spazio per correre, tanto che il Credit Suisse ha inserito i titoli Fiat nella loro focus list, cioè la lista dei titoli preferiti. Grazie Paolo, bene anche i Bulgari, più 3,80%, anche qui c'è addirittura un report di Bank of America, non so quando. Bank of America che era un passo al fallimento, i giudizi degli analisti sono positivi, va bene, la borsa mi sembra che stia tornando con tutte le abitudini pre-settembre-agosto, no? Tanta liquidità in giro, report delle banche d'affari, che poi non si sa quanti di questi titoli hanno in portafoglio, va bene, va bene. Continuiamo a farci del male. Pirelli più 3,45%, Campari più 2,80%, Atlantia più 2,24%, Autogrill più 2%. Pirelli e Campari. Sì, anche qui si tratta di giudizi di banche d'affari, alcune dei quali di qualche giorno fa. Pirelli in particolare, ricordiamo che è già da qualche giorno sotto i riflettori dopo che il presidente Marco Tronchetti Provera, proprio a un incontro con gli analisti di mercato, ha annunciato che di vedere spazio per la distribuzione di un dividendo su questo esercizio, quindi l'anno prossimo. Da allora i titoli hanno guadagnato terreno, Tronchetti Provera si era anche detto fiducioso fiducioso sulla possibilità di Pirelli di raggiungere gli obiettivi del 2009, tutti i fattori che hanno spinto al rialzo il titolo. Per quanto riguarda Campari, invece, ha confermato oggi con un rialzo del 2,78% i guadagni di ieri, quando la società era stata promossa dagli analisti di Exane BNP Paribas, che avevano alzato la raccomandazione ad outperform dal precedente neutral con un target di 7 euro alzato da 5,4. Campari oggi ha chiuso a 6,09 euro. Allora, per quello che riguarda poi altri titoli, visto che ce li chiedete, tra chi tra i migliori e i peggiori in assoluto, Gabetti Property Solution, due giorni che va molto bene, più 17%, Digital Brothers più 15%, e ancora Brioschi più 7%, di Pirelli abbiamo detto, chi è andato peggio, B Team meno 5,20%, L'Oreal meno 4%, Vivendi meno 4,95%. Chi tra i titoli di maggiore capitalizzazione, quelle che hanno andato peggio in assoluto, è Prysmian. In una battuta, Paolo, Prysmian meno 3,60%. Sì, Prysmian è stata penalizzata dopo l'annuncio arrivato ieri al mercato chiuso ufficiale dello stop Draca alle trattative per la fusione con l'olandese Draca. C'erano già state delle indiscrezioni ieri e poi è arrivata appunto la conferma ufficiale di questo stop. Anche qui ti chiedo un po' di rapidità, ma Finmeccanica non ha avuto un grosso scossone, anzi ha guadagnato il 2% oggi, eppure è arrivato al no del Senato americano sulla costruzione degli elicotteri. Esattamente, il mercato sembra non aver risentito di questa notizia negativa per Finmeccanica, secondo gli operatori era già piuttosto attesa e ha piuttosto preferito concentrarci sull'annuncio di ieri del numero uno per Francesco Guarguaglini, che ha annunciato che Finmeccanica è pronta a collaborare con i francesi di EDF nel settore del nucleare, quindi queste prospettive per la società nel settore nucleare oggi hanno spinto il titolo e il mercato ha ignorato le notizie invece negative provenienti dagli Stati Uniti. E poi c'è Intesa San Paolo, un titolo che oggi, ma alla luce anche di alcune notizie, ha guadagnato quasi il 2%. Intanto grazie Paolo Paronetto e buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore. Proprio di Intesa San Paolo continueremo a parlare, ma in merito alla vicenda Banca Fideuram. Chiude a 3 euro infatti per azione il titolo, più 1,94%, con indiscrezioni su una possibile cessione appunto di Banca Fideuram. Tant'è che la Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha indicato di essere interessata all'acquisto della rete di promotori finanziari. Lo ricorderete, era anche un titolo quotato, fu ritirato dal listino 3 anni fa. Tra i candidati anche fondi di private equity del gruppo spagnolo Santander, Marco Liera, visto che quando parliamo di risparmi, di gestione dei risparmi, di investimenti, è materia tua. Allora, al di là del fatto che possa essere assolutamente normale che un gruppo come bancario ceda una sua divisione che si occupa di promotori finanziari, quindi raccogliere risparmi, la cosa sembra interessante per un altro aspetto. Noi abbiamo visto che in tutta la fine degli anni 90, inizio anni 2000, le banche acquisivano anche quelli indipendenti, i promotori finanziari indipendenti, le reti indipendenti, perché infatti l'accusa era: ecco, le banche hanno il monopolio anche della raccolta dei risparmi per investimenti, non solo dei risparmi nei conti correnti. Questo potrebbe essere un segnale di inversione di tendenza, e se sì, perché? Sì, è una svolta, perché ricordiamo che i promotori finanziari sono nati fuori dalle banche e poi, come dicevi tu, negli anni 90 c'è stato questo processo di bancarizzazione dei promotori finanziari che è durato parecchio, è durato circa un ventennio, e negli ultimi anni le banche universali hanno preso consapevolezza che avere al proprio interno delle attività di risparmio gestito e delle reti di promotori finanziari è molto difficile da fare quadrare con il resto delle loro attività. Non è impossibile, ma è difficile. In effetti soprattutto in Italia che si è verificata questa concentrazione in capo alle banche di una serie di attività bancarie e non, comunque, che comprendono anche l'intermediazione dei risparmi dei cittadini. Ecco, dopo gli inviti che già da qualche anno vengono formulati del governatore Draghi a una separazione del risparmio gestito dalle altre attività delle banche tradizionali, adesso è arrivato il momento anche delle reti di promotori. Peraltro in questo Intesa San Paolo viaggia con una certa coerenza, perché ricordiamo che già 5 anni fa Banca Intesa decise di cedere la propria Banca Primavera, la propria rete di quel tempo di promotori finanziari. Fideuram è un'eredità della fusione con San Paolo. Secondo te, poi ne parliamo magari anche dopo il GR, a parte che vedo che c'è chi già va con la Marcord a 10 anni fa, un po' di pazienza, arriveremo al 4 ottobre, e chi scrive vogliamo Freedom Land in borsa, va bene tornare indietro con gli anni, però alcune cose, l'eredità, alcune cose vorremmo rivederle più. C'è l'erede di Freedom Land, Eutelia, eccoci qua, e poi non vorrei far rifare la Marcord di Parmalat, di Cirio, e dell'Argentina, giusto per citare alcune così robetta degli ultimi anni. Però tornando al tema di Fideuram, Marco Liera, sarebbe interessante capire se oltre alla difficoltà della crisi al bisogno anche di fare cassa non ci sia stato un ragionamento un po' più profondo e quindi meno congiunturale, cioè forse le banche hanno capito che quella roba lì non era il loro mestiere precipo, termine osceno, il loro mestiere principale, che l'attività non veniva da lì, che la gestione di prodotti finanziari molto strutturati non c'è bisogno del promotore, oppure se devi prestare soldi alle imprese non hai bisogno del promotore finanziario. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, Marco Liera, al di là della vicenda che vedremo come andrà a finire della cessione ipotizzata da parte di Banca Intesa San Paolo di Fideuram, vedremo se a Exor o a Santander, insomma, a chi è interessato, c'è un ripensamento in corso sul fatto che le banche debbano avere al loro interno anche la rete di promotori finanziari. Secondo te si sono rese conto che forse è più un lavoro da banca a prestare i soldi a chi ha degli investimenti, dei progetti privati, cittadini o imprese, o sul fronte completamente opposto utilizzare strumenti finanziari molto molto rischiosi, e in questo scenario viene meno il ruolo della raccolta dei promotori? Guarda, gestire i risparmi dei cittadini è un mestiere da specialisti. Questo riguarda sia le fabbriche di gestione, quindi le SGR, sia i promotori, i consulenti, le persone che stanno a contatto con i risparmiatori. Allora, nella maggior parte dei mercati avanzati questo mestiere da specialisti è sempre stato svolto da organizzazioni specializzate, quindi organizzazioni che svolgono soltanto questa funzione, quella di gestire i risparmi dei cittadini. Perché? Perché è un servizio che deve essere fatto con adeguata formazione, perché gestire i risparmi è un affare complicato, bisogna essere molto preparati, bisogna essere ben formati, bisogna essere ben incentivati. Non dimentichiamoci che la struttura retributiva delle banche, in particolare delle banche italiane, è fortemente appiattita a livello proprio di sportelli, di banche retail. Poi, chiaro, abbiamo i mega bonus dei top manager, però a livello di sistema retributivo proprio della forza lavoro delle banche noi abbiamo una realtà fortemente appiattita. Invece nelle reti di promotori bisogna accettare il fatto che chi gestisce bene il patrimonio del cliente deve essere ben pagato, ben retribuito. Ecco, questo penso sia, al di là dei conflitti di interesse, al di là delle anche difficoltà manageriali di affrontare questo settore, sia proprio un problema anche culturale che ha riguardato anche, a mio avviso, le autorità di controllo. In questi anni, per esempio, si è notata anche una certa ostilità da parte delle autorità di controllo nei confronti dei promotori finanziari, forse ritenuti delle persone troppo indipendenti, troppo libere, diciamo, da schemi e convenzioni, che quindi hanno bisogno di punti di riferimento diversi rispetto a quelli del sistema bancario tradizionale, che come tale è un sistema più conosciuto dalle autorità di controllo. E staremo a vedere se intanto Intesa cederà a Fideuram, e poi se questo sarà il là a tutta una nuova stagione di ripensamenti del ruolo delle banche nella gestione dei promotori finanziari, quindi nella raccolta del risparmio cosiddetto gestito. Grazie a Marco Liera. Grazie a voi. E in bocca al lupo e buon fine settimana anche a te e ai colleghi di Plus. Noi invece adesso cambiamo tema dalla finanza all'economia reale e agli imprenditori che accettano la sfida. Noi continuiamo perché molti di voi ci hanno scritto in questi giorni, artigiani, piccoli, piccolissimi imprenditori, e, dicendo insomma noi non abbiamo la fortuna dei grandi gruppi, dei grandi marchi che sono conosciuti, appoggiati, hanno rapporti migliori con le banche, col mondo istituzionale. Noi invece dobbiamo arrangiarci, ci sentiamo isolati e abbandonati delle volte anche dal mondo bancario. E allora, lo ricordo che non avesse sentito la prima parte di questo nostro viaggio, vogliamo sapere da chi rappresenta questi casi di successo, questi marchi importanti, se anche loro la crisi la sentono, se si è tutti nella stessa barca, se questa crisi funziona come, come una livella, oppure se invece loro no, vivono in un altro mondo. Dopo, e avere suggerimenti anche da questi imprenditori. Dopo il racconto e i consigli che ci ha dato Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym, oggi la volta di Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin e OVS. Buonasera, dottor Beraldo. Buonasera a lei. Allora, voi siete un gruppo, parlo di Coin in questo caso, che ha avuto un miliardo, più di un miliardo e 100 milioni di euro di vendite nel 2008, in leggero calo. L'utile netto comunque è stato di 38 milioni di euro, un indebitamento che a fine dell'anno scorso era di 275 milioni di euro. Però i primi mesi non sono andati male. E allora la prima domanda è proprio su questo. Anche voi, come Coin, come OVS, sentite la difficoltà di questa crisi, oppure viaggiate in un altro mondo, in un'altra dimensione che nulla a che fare con quella dei piccoli, piccolissimi imprenditori artigiani? Ma dunque, intanto sicuramente viaggiamo nello stesso mondo dove viaggiano tutti, dove l'aria è diventata più pesante, il mare più alto e quindi si fa più fatica. Non credo che il discorso riguardi grandi verso piccoli, piuttosto fortunati verso sfortunati, bravi verso meno bravi, innovatori verso non innovatori. Purtroppo le crisi quando arrivano richiedono alle aziende mezzi di reazione che non sono solo la finanza. È vero che le imprese grandi possono averne di più, ma non è sempre vero. Nel nostro caso non abbiamo problemi finanziari, ma di finanza non si fa business. La finanza serve eventualmente per difendersi o per investire in idee di business. Devo dire che noi andavamo male quando tutti andavano bene, quindi forse la nostra storia è un pochino diversa da molte altre. Noi, quando abbiamo comprato questa azienda 3 anni fa, abbiamo comprato un'azienda che aveva 40 milioni di perdite e aveva dei seri problemi di sopravvivenza, e gli altri andavano tutti piuttosto bene. Questo ci ha costretto a rivedere il modello di business radicalmente in tutte e due le insegne del gruppo, sia OVS che Coin, e quindi ci ha messo, forse siamo stati fortunati, essendo ammalati in un momento in cui stavano bene gli altri, abbiamo fatto gli anticorpi, ci siamo curati per tempo e oggi stiamo andando, penso, piuttosto bene, non perché non ci sia vento forte là fuori, ma perché abbiamo fatto delle cose negli ultimi anni che ci hanno consentito adesso di godere dei benefici di quanto fatto prima. Allora, visto che avete fatto il vaccino, chiamiamolo così, alla crisi, avete sviluppato gli anticorpi, perché come lei ricordava l'avete vissuta come vostra prima di che diventasse una crisi globale, ci può dire questo vaccino e questi anticorpi in che cosa consistono, così magari anche altri imprenditori piccoli, medi, possono prendere nota e recarsi tra virgolette in farmacia? Rido perché non è mica facile nel poco tempo che abbiamo, però diciamo che prima di tutto consistono nel rivedere, nel fare l'anamnesi e nel capire la ragione dei tuoi mali e nel rivedere il modello di business quando necessario. In grande sintesi ci siamo accorti che nel nostro settore fare solamente servizio non era sufficiente, quindi il cliente di una casa che fa abbigliamento, cioè che fa moda, deve dare al cliente tante variabili. Una di queste è sicuramente l'emozione e il piacere, e noi ci occupavamo poco di queste variabili un po' soft, che forse in chi fa tondino d'acciaio o in chi fornisce energia elettrica non sono indispensabili, ma in chi fornisce, in chi produce e distribuisce abbigliamento sono indispensabili. Abbiamo cambiato i contenitori, abbiamo cambiato quindi i nostri negozi, abbiamo investito, abbiamo rischiato investendo a ragion veduta perché il cliente ci ha premiato, abbiamo cambiato la pelle e l'involucro dei nostri negozi. Poi abbiamo cambiato anche il contenuto in buona parte, nel senso che abbiamo mantenuto fermo solo il prezzo, ma abbiamo cambiato radicalmente il tipo di prodotto, il gusto, i fornitori, abbiamo cambiato moltissime cose nel parco dei nostri fornitori, ci siamo spostati, in qualche caso ci siamo dovuti spostare dall'Italia come parco di fornitura, ma in realtà abbiamo fatto quello che in realtà altri avevano già fatto, perché in realtà ho trovato un'azienda che comprava in Italia per finta, perché poi in realtà comprava da agenti che a loro volta compravano già dall'estero, quindi pagavamo dei margini inutili a degli intermediari. rivedendo il modello di business, producendo articoli prodotti migliori, mantenendo gli stessi prezzi, avvantaggiandosi delle grandi economie di scala che una grande azienda come la nostra, questo è obiettivamente un vantaggio, ci ha consentito di ottenere, facendo molti più viaggi, lavorando molto di più, correndo molto di più e cambiando l'involucro, siamo riusciti a dare al nostro cliente un'immagine e anche un contenuto che lui ha apprezzato come diversi e oggi ci sta ripagando. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora continuiamo il racconto degli imprenditori, delle difficoltà ma anche delle soluzioni adottate. Ricordo oggi la volta di Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin e OVS. La descrizione che faceva poco fa dottor Beraldo, insomma, emerge un lavoro fatto non solo su un grande unico filone, ma un lavoro che, come direbbero gli inglesi, si può chiamare di fine tuning, di aggiustamenti mirati, anche piccoli, sottile riposizionamento, rete commerciale, velocità di reazione dei manager e dei dipendenti. Forse la regola potrebbe essere che più che pensare ai grandi sistemi, ai grandi cambiamenti, occorre mettere mano a tutte le piccole parti che compongono poi il lavoro di un imprenditore e di un gruppo? Io penso questo. Nel caso mio, purtroppo, per fortuna, non è stato solo un fine tuning, ma è stato anche una grande trasformazione di format. E mi rendo conto che non tutti la possono fare. Però chi fa commercio deve avere coraggio di intervenire in modo forte nel proprio punto vendita e nel proprio merchandising. Il fine tuning è arrivato contestualmente, quindi il nostro è stato un lavoro a 360 gradi, ha toccato tutto, ma ha toccato soprattutto il riposizionamento delle insegne. Gli abbiamo dato più glamour, gli abbiamo dato più internazionalità, gli abbiamo dato più appeal, cambiando il look con cui i nostri negozi vengono percepiti dai nostri clienti. Abbiamo anche cambiato, ripeto, il merchandising, e questo è un fatto, se vuole, anche in qualche misura di fine tuning, però con un forte indirizzo innovatore. Però il messaggio che io dico abbiamo un po' preso da questo è che ogni quattrino investito in modo corretto nel nostro business è stato ripagato dai nostri clienti, cioè noi abbiamo ristrutturato negozi e siamo stati premiati con incrementi del 20-30% a parità di superfici. Questo corrisponde a 20-30% di nuovi clienti acquisiti, perché non abbiamo cambiato lo scontrino medio, non è aumentato lo scontrino medio, è semplicemente aumentato il numero di scontrini, principalmente, questo risulta dalle ricerche di mercato che abbiamo fatto a posteriori, grazie a nuove fasce di consumatori che abbiamo catturato, cambiando un po' la nostra immagine e ringiovanendola. Dottor Beraldo, quando la stessa intervista l'abbiamo fatta con Nero Alessandri, lui sosteneva anche che in questi momenti, che la crisi intanto può essere un'opportunità, uno deve fare anche di necessità virtù, nessuno la voleva, però c'è, e un'opportunità anche per andare a rivedere tutta la rete di vendita, nel caso suo, quindi, e lavorare soprattutto sul fattore umano, sulla componente umana. Anche per voi, diciamo, questo aspetto, non tanto, non solo la rete di vendita, lei l'ha già chiarito, il lavoro molto grosso che avete fatto sui vostri punti vendita, ma il fattore umano? Cioè, possono emergere i migliori da una crisi, mentre quando le cose vanno bene, alla fin fine tutti stanno un po' dentro e ci si appiattisce un po' di più? Assolutamente sì, guardi, faccio un commento su quello che ha detto Nerio Alessandri, la persona che ha saputo crearsi delle nuove posizioni di mercato con grande coraggio, io lo ammiro moltissimo, quindi diciamo quello che ha fatto è una cosa importantissima. Nella crisi a noi sta succedendo esattamente questo, cioè noi per esempio stiamo leggendo che nella crisi è chiaro che chi ha modelli di business deboli o non ha idee chiare ed è destinato a soffrire di più diventa anche un'opportunità di aggregazione per chi invece ha qualcosa di più solido. Noi nella crisi siamo diventati acquisitori, abbiamo comprato due aziende, le abbiamo recentissimamente convertite nei nostri formati. Con ciò abbiamo salvato centinaia di posti di lavoro, abbiamo fatto assunzioni, abbiamo aumentato quota di mercato, perché tutto sommato nella crisi vincono i modelli più giusti. E per quanto riguarda la sua domanda sulle persone, la risposta è certamente sì. Nella crisi il cliente diventa molto molto più selettivo e quindi tu devi fare le cose molto molto meglio. Quando le tue persone riescono a farle meglio, immediatamente c'è un premio sui concorrenti. Immagino che le acquisizioni riguardassero OVS, che dal 2007 avete fatto proprio, avete cambiato come marchio, come proprio offerta, e soprattutto Mela Blu. Fino a ottobre dell'anno scorso avete acquisito il marchio Mela Blu, poi cambiandolo con il marchio OVS. Visto che lei parlava di acquisizioni, per inciso, siete ancora interessati al gruppo UPIM, perché a fine A fine luglio c'era anche una vostra manifestazione di interesse? Allora, noi come acquisizioni, oltre a Mela Blu, abbiamo acquisito anche qualche mese fa un'azienda più piccola che si chiama Dem, che ha avuto lo stesso, diciamo, logica di business di Mela Blu, quella di allargare il nostro portafoglio con delle ottime location che abbiamo convertito immediatamente in OVS, e ad oggi posso dirle, per esempio, a testimonianza del fatto che le crisi sono anche delle opportunità per chi è portatore di buoni modelli di business, i negozi Dem convertiti stanno triplicando il fatturato sulle stesse superfici grazie all'insegna OVS. Per quanto riguarda Upim, è vero, c'è stato un interesse che non è mai venuto meno nel corso, direi, di più di un anno. È un'azienda, diciamo, in questo momento che sta avendo qualche difficoltà, che peraltro dimostra anche ai piccoli, come lei diceva dalla domanda iniziale, che non è che chi è grande sta bene e chi non è grande non sta bene. Credo che però abbia, diciamo, la possibilità di superare le difficoltà, e pertanto non è facile che si possa concludere questa trattativa in tempi brevi. Certo, confermo l'interesse, ma confermo anche che non c'è nulla di concreto. Cioè, le trattative non vanno avanti. Lei citava caso Upim, in effetti Upim ha registrato una perdita netta di 19 milioni di euro al bilancio del settembre 2008. Ultima domanda per lei, dottor Beraldo, sempre sulla scia delle nostre interviste. Lei ci ha fatto capire molto bene come non solo i problemi siano uguali per tutti, pur con tutte le differenze del settore e anche delle dimensioni, ma addirittura voi li avete avuti prima che la crisi diventasse crisi globale. C'è però l'idea che quando un marchio come Coin o come altri grandi gruppi va a trattare in banca, beh, la banca ci tiene al cliente e ha anche qualche consiglio preferenziale, mentre se va il piccolo Mario Bianchi in banca gli si chiede di rientrare, si stringono i cordoni, ecco. Almeno, cioè, su questo voi vi sentite privilegiati nel rapporto con le banche? Allora, le do una risposta tecnica e poi, se la vuole, le do anche un commento personale. Tutte la due. Risposta tecnica è noi non siamo privilegiati nel rapporto con le banche, ma è una risposta tecnica, in quanto un anno e mezzo fa il nostro piano di finanziamento, in virtù delle performance che stavamo realizzando, molto migliori di quelle che le banche si ipotizzavano e che erano alla base dell'erogazione del finanziamento, ci hanno consentito di rinegoziare in meglio tutti i nostri parametri. Quindi oggi noi godiamo di una posizione vantaggiosa grazie al fatto che abbiamo chiuso un bilancio 2007 molto migliore di quanto le banche si aspettavano. Nel 2008 abbiamo potuto rinegoziare, prima della crisi finanziaria, a lungo termine, in modo molto migliore, tutti i nostri parametri. Quindi le banche oggi non sono un tema, nel senso che il nostro finanziamento è chiuso e nessuna banca può chiederci un rimborso, visto che abbiamo linee di credito a medio e lungo termine. Sul fronte della crisi io le confermo invece che i segnali di una difficoltà di ossigeno da parte delle piccole imprese ci sono. Noi operiamo con un numero limitato, ma comunque consistente e tangibile, di piccoli operatori che sono i nostri franchisee. Siamo diventati noi la loro banca, cioè stiamo noi facendo la banca ai nostri franchisee, perché altrimenti loro morirebbero. Cioè, il sistema bancario oggi sta oggettivamente rendendo complicata la vita ai piccoli operatori, e quelli di loro che non hanno la fortuna di avere delle scorte finanziarie adeguate o dei fornitori capaci di dare a loro volta fiato si trovano oggettivamente in difficoltà. Noi lo vediamo con molti dei nostri piccoli partner a cui dobbiamo allungare le scadenze di pagamento, perché purtroppo le crisi richiedono, per uscire, due cose: o il tempo o una scorta finanziaria sufficiente per consentire alle imprese che saranno capaci di farlo di cambiare migliorando il proprio modello di business. In mancanza delle due cose si è condannati, ma purtroppo in mancanza del tempo che la finanza a volte non ti dà, non c'è appunto il tempo di implementare cambiamenti che a volte sono necessari. Beh, interessante che voi stiate facendo in qualche modo le funzioni di una banca ai vostri fornitori o clienti, ai vostri clienti. Dilazionando, se ho ben capito, insomma, sì. I tempi in cui gli chiedete di rientrare, di pagarvi, detto brutalmente. Una domanda che arriva al 349-238-6666, ma come avete fatto ad andare bene in un momento in cui i consumi sono in calo e in alcuni casi crollano? È una risposta di un suo ascoltatore, una domanda di un suo ascoltatore? Sì. Guardi, noi siamo andati bene perché abbiamo 70 negozi in più e quindi siamo cresciuti come superficie e quindi abbiamo più vendite dell'anno prima perché abbiamo più negozi. Oggi riusciamo a dire che andiamo bene in Coin anche a parità di superfici perché abbiamo introdotto in Coin dopo un forte lavoro fatto sulle infrastrutture, molte marche, molte nuove merceologie che prima non riuscivamo ad ottenere, che non riuscivamo a commercializzare. In OVS abbiamo introdotto linee di abbigliamento nuove, abbiamo introdotto fiorucci, abbiamo introdotto calzature, abbiamo introdotto profumeria, abbiamo introdotto accessori e quindi ci siamo tirati sulle maniche e ci siamo organizzati. In assenza di interventi, io ho dei negozi per esempio che non ho ristrutturato, che sono in aree dove non è successo niente, dove non ho introdotto queste nuove merceologie perché non sono riuscito a introdurle su tutta la rete, io mi sto anche facendo dei bei numeri negativi. È l'insieme delle mosse e delle contromosse che ci ha consentito di fare numeri positivi. Beh, allora in bocca al lupo, mi sembra anche giudicare dagli sms che queste lezioni, per carità molto molto modeste, non vogliamo sostituirci a nessuno, ma insomma questi consigli, chiamiamoli così, trovino un bel riscontro. Grazie, in bocca al lupo a Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin. Grazie a voi per l'attenzione. Ed è veramente tutto per questa puntata e per questa settimana con Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza in redazione, a tutti i tecnici della Radio24 per l'assistenza invece in regia. Da Sebastiano Barisoni, a voi in ascolto, l'auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.